Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Per questo libro vorrei iniziare dalla fine. Giuro che non vi sto svelando il finale del romanzo, ma vorrei leggervi una riga dei ringraziamenti perché è fondamentale. Nei ringraziamenti l'autrice di questo libro scrive che l'idea del romanzo è nata nell'estate del 2016 a Lampedusa. Questo dato è fondamentale, questo dato cronologico, perché questo è un romanzo scritto prima della pandemia. La scrittrice è Loredana Lipperini. Il romanzo si intitola La notte si avvicina, pubblicato da Bompiani. Loredana Lipperini, scrittrice, l'avevamo già intervistata qui al Cacciatore di libri. Vi ricordo un paio di titoli: L'arrivo di Saturno e Magia nera, ma nota anche al grande pubblico come conduttrice del programma Fahrenheit di Radio 3. Ho precisato il momento in cui è nata l'idea perché in questo romanzo si parla dell'arrivo di una pandemia, della peste nello specifico, in un paesino immaginario che è chiamato Valle Scura, si trova nelle Marche. Si pensa che su Valle Scura ci sia una sorta di maledizione perché ci sono terremoti, c'era stata la peste anche in passato, ma diciamo che mentre dopo un terremoto si sviluppa una certa solidarietà, vicinanza fra persone, la malattia contagiosa naturalmente crea delle fratture. Questo paese è messo in quarantena, ci sono le transenne con i militari, tra l'altro nessuno parla di questo paese, sembra veramente dimenticato. Ci tengo a precisare però che questo non è tanto e solo un romanzo sulla peste. Secondo me è un romanzo soprattutto che indaga il male e i suoi meccanismi. Loredana Lipperini, partiamo dunque da questo paese immaginario. Più volte nel romanzo tu sottolinei che questo è un paese che detesta i cambiamenti, non vuole cambiare, rifiuta tutto ciò che è straniero e tutto ciò che è novità. In che senso? Anzitutto è sempre bello ritrovarti, Alessandra Tedesco, quindi evviva. E allora, rifiutare i cambiamenti secondo me è il primo passo per iniziare il proprio declino. È avvenuto, per la verità, in tutta la storia delle epidemie, prima della peste nera del 300, questo mi aveva colpito moltissimo, c'era stato un periodo di lusso, cioè il 200 amava il lusso, amava il grano, amava il pane in tutte le sue forme, ma non aveva saputo gestire quel cambiamento che aveva portato appunto ad arricchirsi, non aveva saputo mutare la sua economia, per esempio, e la carestia che seguì e che precedette la peste del 300 dette il colpo di grazia a quel vecchio modo di essere. Ora, questo atteggiamento di chiusura, diffidenza e conservazione dello status quo è qualche cosa che a mio parere affliggeva e affligge anche noi, perché è vero che è un romanzo sul male, è anche un romanzo sull'Italia sostanzialmente, rappresentata in piccolo, miniaturizzata nell'immaginario luogo che si chiama Valle Scura, un paese che non vuole cambiare, un paese che teme i cambiamenti, teme chi viene da fuori, respinge chi viene da fuori. Ecco, è un paese così che soffre di quella che gli antichi cronisti chiamavano la disaffezione dello spirito e forse non può che essere unito, finito dalla peste. Ecco, questa è la domanda che mi sono fatta e me la sono fatta non casualmente a Lampedusa. Ecco, tu fai raccontare tutta questa storia da una donna, lo possiamo dire perché tanto si capisce dalle prime pagine, che è morta. E quindi diciamo che inizialmente era una delle due sopravvissute di questa epidemia in questo paese di 400 anime, che si rivolge virtualmente ad una ragazza cercando un po' di ricostruire i fatti e di come appunto si è scatenata questa epidemia. Ci sono tre personaggi femminili principali: Saretta, Maria e Chiara. Partiamo proprio da Saretta, perché è una donna anziana che si è autoattribuita, come dire, il compito di vigilare sul paese e di assicurare che questo paese non subisca, diciamo, l'ingresso di persone straniere che possano appunto turbare questi equilibri. Che personaggio è Saretta? Saretta è il personaggio che mi ha affascinato di più mentre lo andavo delineando. È un antagonista, è una villain in teoria, perché è capace di compiere il male più profondo. Eppure mi piaceva trovare in lei non una giustificazione, un punto d'avvio che l'avesse fatta poi diventare come una custode. Ecco, i custodi sono sacri quasi sempre, ma possono essere sacri nel bene, possono essere sacri nel male. Il suo custodire il paese significa preservarlo da qualsiasi possibilità di mutazione, anche a costo di versare sangue. E Saretta però non sceglie tutto questo, in fondo poi si capirà nel proseguo del romanzo. È un destino che lei ha accettato certamente, che ha portato avanti. E però forse poteva essere altro. Questo poteva essere altro vale un po' per tutte le personaggi del romanzo. Potevano tutte essere altro, potevano diventare altro, se non fosse che le scelte fatte o non fatte le hanno portate a un certo punto, e questo naturalmente vale anche per il paese. Ecco, l'altro personaggio che citavo prima è Maria, questa donna di 38 anni, è una vedova alla quale hanno gli assistenti sociali hanno sottratto i figli, assistenti sociali aizzati dalle madri dei compagni di classe di questi bambini. Attraverso Maria noi vediamo anche un modello molto negativo e feroce della femminilità e della maternità, anche per esempio con Saretta, perché Saretta non è madre e capisce che le donne che sono diventate madri si considerano sempre, come dire, una spanna più su rispetto alle altre. Tu affronti spesso il tema della maternità, in questo caso della maternità anche feroce che si può a volte attuare. In parte l'avevo raccontato sia ancora dalla parte delle bambine, sia in Di mamma ce n'è più d'una, perché questo aspetto del materno mi ha sempre colpito e lasciato sgomenta. Ed è, se vuoi, anche un sintomo, un segno, forse il più importante di quel processo del rinchiudersi in se stessi, di guardare sempre di più al proprio piccolo giardino, alla propria vita, quella dei propri figli, a dispetto e spesso contro le vite degli altri. È un segno anche questo di disaffezione dello spirito, che molto, molto, molto spesso passa per il materno. Questo io l'ho visto avvenire fisicamente negli anni in cui i miei figli erano piccoli, quindi stiamo parlando della fine degli anni 90, dell'inizio degli anni 0, e l'ho visto anche ora progredire nei social, nei racconti delle mie amiche più giovani che parlano dello stesso tipo di esperienza. Ecco, questo rinchiudere il proprio sguardo entro quattro pareti, secondo me, è il sintomo più potente di quello che è davvero il male che stiamo attraversando, quello più forte, quello che va addirittura oltre la pandemia, se posso dirlo. Ecco, tu però hai immaginato un mondo veramente più chiuso del chiuso, perché questo è un paese chiuso, isolato, che viene chiuso per la pandemia, la gente si chiude nelle case, quindi è veramente, come dire, la chiusura estremizzata, anche da un punto di vista, probabilmente ipotizzo, metaforico o no? Assolutamente sì, la bellezza del poter scrivere romanzi, anche romanzi che costeggiano l'irreale, il fantastico, però cercando di raccontare la realtà, significa poter estremizzare quello che è più sfilacciato nella realtà, ma neanche troppo poi se ci pensi, perché pensa a tutte le reazioni che ci sono state davvero, con mia grande sorpresa e sgomento anche qui, quando la pandemia è scoppiata, pensa a tutte le divisioni, alla ricerca di colpevoli per categorie, e prima i runner e poi i vecchi e poi i giovani con i loro aperitivi e via così. Ecco, questo dimostra una sola cosa, che si guarda a se stessi, a volte in buona fede, a volte pur essendo delle bellissime persone, però si tende a ragionare escludendo, chiamiamola così, escludendo la polis di fatto. E per una ragazza del secolo scorso, come io sono, effettivamente questo è un segno che fa paura, perché nel momento in cui tu non riesci a ragionare collettivamente, vuol dire che rischi di disgregare tutto quello che è stato costruito negli anni e che si potrebbe ancora costruire. Quindi sì, è un romanzo, in un certo senso è un romanzo filosofico. Ecco, a proposito del cercare sempre e comunque il colpevole, anche in questo romanzo si vede questa dinamica veramente estremizzata, soprattutto Saretta cerca di individuare chi è la persona che viene dall'esterno ad aver, diciamo, causato questo cataclisma. Questo è un meccanismo, come dicevi tu, che si è verificato anche recentemente da noi nel caso della pandemia. Abbiamo detto che questo romanzo è stato scritto prima. Eppure, pensi che leggendolo oggi il tuo lettore possa sentirsi ulteriormente coinvolto da quello che legge? Io me lo auguro, anche se il mio intento evidentemente non era quello di raccontare un'epidemia durante una pandemia vera. Mi auguro però che possa riconoscere delle costanti che si sono sempre verificate e sono tornate nei secoli. Pensa solo alla colonna infame di Manzoni, pensa a come racconta quello stesso meccanismo dello spiare da una finestra o da un balcone il comportamento degli altri per trovare il colpevole. Il problema è che noi abbiamo bisogno di colpevoli, purtroppo, perché non vogliamo credere alla casualità, al destino, alla irrazionalità di un male collettivo. Camus nella peste diceva che i cittadini di Orano sostenevano che non potesse durare la peste perché è stupida e anche quando c'è una guerra si dice è stupida e dunque non può durare, invece durano purtroppo. E allora si cerca un motivo, si cerca possibilmente un motivo incarnato in qualcuno. Si faceva anche ai tempi dell'antica Grecia, purtroppo, ed è stato qualche cosa che non ci ha mai abbandonato. Ecco, io spero che il lettore di oggi possa in un certo senso capire che non siamo cambiati, ma che forse conoscendoci possiamo cominciare a pensare di poter cambiare. Questa è la cosa a cui tengo di più. Ecco, nel caso delle pandemie o comunque dei disastri si cerca, come dicevamo sempre prima, un colpevole, ma si cercano anche i cosiddetti segni premonitori che possono aver anticipato una determinata disgrazia. I sogni anche, nel tuo caso c'è il personaggio di Chiara, questa donna di 50 anni che va a Vallescura a trovare la ex suocera perché ha fatto un sogno, lei ha sognato la peste, quindi esiste anche questa dimensione dei sogni. E dei segni, in questo caso premonitori, che alcune persone pensano possano esistere realmente. Io credo che gli scrittori un po' sognino, e non a caso Chiara è una scrittrice, scrive libri per ragazzi, e sicuramente è una visionaria, che poi quei sogni possano trasformarsi in testimonianza, che è il problema per Chiara più importante. Ora che so, o perlomeno presagisco, che cosa devo fare, che cosa posso fare, posso andare nel luogo dove nel mio sogno è scoppiata la peste e dove poi era davvero evidentemente per testimoniare e testimoniando compio un gesto di giustizia, posso riparare al male fatto. Questo è un problema che si erano posti anche gli antichi cronisti, sai, della peste. Quel monaco irlandese che si chiamava John Clean e che durante la peste nera del 300 morì a metà della frase con il rammarico che non ci fosse più nessuno secondo lui, che fosse l'unico, l'ultimo uomo sulla terra che potesse testimoniare quello che è successo. Per me la scrittura è sempre un po' anche testimonianza. Un'ultima domanda, Loredana Lipperini. Tutta questa narrazione viene puntellata qui e lì dal ricordo di fatti di cronaca, soprattutto di cronaca nera, sia nazionali che internazionali, realmente accaduti. A cosa ti sono serviti dal punto di vista narrativo? Per sottolineare un altro dei temi che mi stanno a cuore, che è quello della memoria, perché quei fatti realmente avvenuti e di cui sia Chiara che Saretta tengono nota per motivi diversissimi, per non dimenticarli, ecco, e cercano proprio in quei fatti i presagi, ecco, per me sono un po' il sintomo della nostra smemoratezza. Noi dimentichiamo così in fretta, ci indigniamo, ci accaloriamo, ci spaventiamo, soffriamo anche per dei fatti di cronaca nera che ci colpiscono moltissimo e poi il giorno dopo già non ci sono più. Siamo fermi in un eterno presente. Ne avevo già parlato un po' nell'arrivo di Saturno, che è fortemente collegato alla notte si avvicina, il paese è lo stesso, c'è sempre Valle Scura, peraltro. E questo è un altro delle stille di veleno, se vuoi, che intorbidano i nostri pozzi. E anche di questo mi piacerebbe che si parlasse di più, anche e soprattutto in narrativa. Grazie a Loredana Lipperini, ora in libreria con La notte si avvicina, pubblicato da Bompiani. Grazie Loredana. Grazie Alessandra Tedesco. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. ci sono scrittori che qui al Cacciatore di Libri abbiamo, diciamo, tenuto quasi a battesimo, nel senso che li abbiamo seguiti dal primo romanzo, e uno di questi è Lorenzo Marone. Ricordo così alcuni titoli: La tentazione di essere felici, che era diventato un film di Gianni Amelio, La tenerezza, La tristezza e il sonno leggero, Magari domani resto, Un ragazzo normale, Tutto sarà perfetto, Inventario di un cuore in allarme. Ora Lorenzo Marone è in libreria con La donna degli alberi, pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo apparentemente diverso dai precedenti. Questo è un romanzo molto intimo e quasi un diario di un anno di vita di una donna in fuga dalla sua vita, insomma, che lascia la città e si rifugia in montagna a contatto proprio con la natura. Allora, Lorenzo, partiamo proprio da questa protagonista. Da che cosa fugge questa donna? Ma fugge da una vita che non sente più sua, dal tutto di troppo, da una vita frenetica, quella delle metropoli, che ci anestetizzano e cerca riparo in un bosco per tornare a sentire, per tornare a raccogliersi, per cercare un nuovo sguardo, per cercare una nuova identità. È un processo di guarigione. Lei è una donna che deve guarire e ha bisogno del bosco per questo. Infatti, proprio all'inizio, in una sorta di prefazione, lei, la voce narrante, dichiara di voler fuggire appunto da questa società della performance, dei vincenti, della rapidità a tutti i costi. Insomma, questo è stato per te anche, è per te anche un romanzo di critica sociale? Ah, sì, nasce un po' anche qui autobiografico. È nato, ho sentito io l'esigenza, dopo un periodo difficile l'anno scorso, di tornare un po' a recuperare l'essenziale, cercare di liberarmi un po' di inutili orpelli, di questa vita che mi cominciava un po' a pesare sulle spalle, il tutto così frenetico, così veloce, e fa parte purtroppo della nostra società. È una giostra che non si deve fermare mai, perché non, affinché per non farci sentire, ecco, per non metterci in ascolto, perché se poi ce ne stiamo accorgendo in questo periodo storico, poi se ci fermiamo ad ascoltare noi stessi, allora siamo travolti dalla paura, e quindi è una continua rimozione. La frenesia serve a rimuovere quello che è le paure, la rabbia, il dolore, il concetto di morte, eccetera. E però il problema è che a furia di rimuovere, rimuovi le cose brutte, rimuovi il dolore, ma rimuovi anche il bello, diventi incapace di scorgere il bello, la poesia del minuscolo, ciò che ci dà respiro nel quotidiano. E lei cerca invece proprio questo. Ecco, tu hai deciso di raccontare questa storia dando voce proprio a questa donna, nel senso che è scritto con una prima persona femminile. Com'è stato metterti proprio nei panni e nella voce narrante di una donna? Mi è piaciuto molto, non è la prima volta che capita. Io sento soprattutto in questo periodo, in questi anni, l'esigenza di raccontare, di vestire i panni, di raccontare una voce femminile. Credo che questo, soprattutto in questo momento storico, abbiano più da raccontare le donne. Poi in realtà io non mi piaceva, dovendo ovviamente parlare di una storia ambientata in montagna, attraversando di un inverno, eccetera, non mi piaceva la figura dell'uomo, il montanaro, il boscaiolo. Io volevo una persona minuta, fragile, volevo una persona che con il suo dolore, con il suo vissuto doloroso alle spalle, potesse trovare la forza però di rialzarsi, di trovare dentro di sé il coraggio e la capacità di attraversare appunto l'inverno. E quindi mi è venuto naturale parlare di donne. Io generalmente non trovo grandi difficoltà, o almeno sarà che sono nato, cresciuto, insomma, con mezzo alle donne, tra le donne, quindi credo di avere una sensibilità più femminile, quindi mi diverto e mi sento a mio agio. Poi questo ovviamente dovranno dirlo le donne, se ci sono riuscito o meno. Sì, da donna ti posso dire, da lettrice, che ci sei riuscito perfettamente, però possiamo dire che comunque in questa storia c'è anche un uomo, lo straniero viene definito, è un uomo che abita dall'altra parte della valle, quindi la donna, la voce narrante, io continuo a chiamarla così perché in questo tuo romanzo tutti i personaggi non hanno dei nomi propri, quindi c'è appunto la voce narrante, questa donna, poi c'è lo straniero, la guaritrice, la rossa, la benefattrice, hanno tutte delle definizioni così generiche, e dicevo, la donna vede questo straniero dall'altra parte, diciamo, della valle. Con che tipo di atteggiamento lei guarda allo straniero e si avvicina a lui? Ma questi personaggi che tu dicevi, lo straniero, la guaritrice, la benefattrice, sono un po' quelle. Lei è senza, sono tutti senza nome. Lei è senza nome perché io volevo raccontare proprio, volevo raccogliere il sentire comune, volevo parlare di una donna, di una persona con un passato doloroso, dal quale fuggire, dal quale rinascere, dal quale ricominciare. E quindi volevo proprio che il lettore potesse identificarsi in queste pagine. Non volevo, anzi, identificare questa donna con un dolore, ma semplicemente volevo parlare della difficoltà del vivere quotidiano di ognuno di noi. E nella difficoltà del vivere quotidiano di ognuno di noi, però, ci sono sempre delle figure, che in questo caso potremmo definire materne, perché sono tutte figure che nutrono, che accolgono, che abbracciano, ci sono figure che appunto ci tendono la mano. Ci aiutano ad attraversare la tempesta, ad attraversare l'inverno, a scavare la montagna. E lo straniero è uno che ha lo stesso sguardo sulla vita, è uno con il quale la donna sente di avere comunione di sguardo, avere la stessa anima, lo stesso approccio nei confronti della vita, quindi si riconoscono amici subito. Anche lui è un uomo che è preso dalla smania, possiamo dire così, dalla voglia di rendere degno il proprio tempo. È uno che è preso dai rimorsi dell'aver vissuto male. Ecco, io nel rapporto proprio fra questi personaggi ho ritrovato, come dire, il nucleo fondante del tuo stile, insomma, dei tuoi romanzi, Lorenzo, perché ho detto all'inizio che questo sembra apparentemente un romanzo diverso dagli altri, però, per esempio, fra questi personaggi apparentemente molto diversi, si crea sempre quella che tu hai creato in tutti i romanzi, questa sorta di incanto, questa magia dell'incontro umano fra persone appunto apparentemente molto diverse, perché la donna viene da una città, lo si capisce, mentre per esempio la benefattrice è una donna che alleva gli animali, è sempre al contatto con la natura, la guaritrice ha una sua concezione particolarissima del mondo, tra l'altro non parla, quindi si esprime solo attraverso i gesti. Quindi questo è un po' uno dei tuoi caratteri distintivi. Sì, ma infatti è un libro che è differente sia per ambientazione ovviamente, ma anche per stile, però dentro ci sono alla fine quelli che sono anche i miei temi, cioè questa attenzione al minuscolo, insomma, che mi rappresenta da sempre, dai Mi piace di Cesare, della tentazione di essere felici, e c'è lo sguardo, insomma, è quello, non poteva essere altrimenti, e è un omaggio alla natura, è un omaggio appunto alla terra, al bosco, ma non è un romanzo contro l'uomo, anzi è anche un omaggio all'essere umano, in tutte le sue sfaccettature, alla capacità dell'essere umano, all'ostinazione che ci muove, alla caparbietà, alla forza che ci permette appunto di rialzarci, di essere curiosi, di cercare il bello nel brutto, di attraversare quindi la tempesta con tutti noi stessi. Forse anche proprio un inno alla vita, c'è una frase che la donna dice, io non voglio semplicemente esistere, io voglio vivere. Sì, è così. Sono tutti personaggi che si trovano perché hanno questo modo di intendere la vita, hanno questa, sono mosse appunto, dalla frenesia però del vivere bene, del recuperare i veri valori, del recuperare lo sguardo. Quindi giustamente si ritrovano in uno spicchio di mondo, in un angolo di mondo, e sono uniti dalla stessa consapevolezza. Ecco, c'è un'altra cosa che non manca mai nei romanzi di Lorenzo Marone, lo sappiamo, ed è un cane. È ovvio che in questo caso un cane ci deve naturalmente essere perché parliamo di contatto con la natura, ma ci sono tantissimi altri animali, c'è cioè per esempio la volpe che fa visita spesso e volentieri in alcuni momenti particolari a questa donna. Però ecco, tu sappiamo, sei di Napoli, sei uomo di mare, mettiamola così, eppure hai raccontato con un'estrema delicatezza e con coerenza un rapporto fortissimo con la natura di montagna. Hai anche tu questo rapporto forte con la montagna o è stato qualcosa che ti è venuto fuori, diciamo, per la narrazione? No, io amo profondamente la montagna, pur non frequentandola molto, però io nella montagna riesco a scorgere un qualcosa di superiore. Io nell'impalcatura della montagna vedo il sacro, nel bosco riesco a entrare in contatto sento la pace ed entro in contatto con con la poesia, come diciamo prima, del minuscolo, quindi anche con tutti gli animali che la abitano. Il mare mi dà un certo tipo di mare, mi dà calma e tranquillità, però appunto la montagna è altro. E quindi non potevo che insomma, una storia che parla di questo, di una guarigione, non poteva che essere attraverso il contatto con la natura, attraverso il bosco. Il bosco è pieno di animali, io da sempre cerco di raccontare l'individuo. E le relazioni umane, ma anche attraverso le relazioni con gli animali, con gli esseri viventi, perché da questo libro possiamo dire la mia convinzione è questa: la convinzione della donna degli alberi, come di tutti gli altri personaggi, non cercare di fare parte del tutto, non sentirsi al vertice di una piramide, non esiste alcuna piramide, noi siamo esseri minuscoli che fanno parte di un qualcosa di enorme, e all'interno di questo qualcosa di enorme ci sono esseri forse anche più grandi di noi, penso appunto agli alberi, e comunque ci sono tanti altri esseri viventi e dovremmo cercare di cooperare, collaborare con loro, di sentirli amici. Quindi io negli animali riesco a scorgere quel qualcosa, soprattutto nelle esistenze inconsapevoli di esistere, io riesco a scorgere un brillio di sacro, ecco. Grazie a Lorenzo Marone, ora in libreria con La donna degli alberi, pubblicato da Feltrinelli. Grazie Lorenzo. Grazie E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.